mundo. Figli del mondo. Siamo tutti figli del mondo. Figli del mondo. Siamo tutti figli del mondo. Maria, Maria. Figli del mondo. Maria, Maria. Siamo tutti figli del mondo. Tutti siamo il mondo, non fa sconto. Siamo tutti figli del mondo, anche quelli che si scagliano contro. Siamo tutti sulla stessa barca, stesso mare, stessa luna, stessa spiaggia, stesso tetto, sullo stesso pianeta. Siamo tutti sulla stessa cometa. Sullo stesso pianeta. Figli del mondo. Siamo tutti figli del mondo, dal polo nord all'equatore. Siamo tutti figli del mondo, dal polo sud alla stella polare. Siamo tutti figli del mondo. Stessa casa, stesso appartamento, stesso cielo, stessa pioggia, stesso vento. Siamo tutti figli del mondo. Figli del mondo. Figli del mondo. Siamo tutti figli del mondo, anche se parliamo una lingua diversa. Siamo tutti con i piedi per terra, gli occhi al cielo a guardare una stella, anche quando gli gridiamo contro. Siamo di passaggio in questo mondo, siamo tutti figli del mondo. Siamo e dovremo rendercene conto. Figli del mondo. Figli del mondo. Figli del mondo. Siamo tutti figli del mondo. Figli del mondo. Figli del mondo, siamo tutti figli del mondo. Figli del mondo. Figli del mondo. Figli del mondo. Figli del mondo. Figli del mondo. Figli del mondo. Del mondo. Figli del mondo. Figli del mondo. Figli del mondo. Figli del mondo.